hanno 20 case, ma ci sono 2000 chiese. Che paese! Ci sono i svizzeri del Papa con l'accento viterbese. Che paese! E c'è gente che in un'ora si diverte per un mese. Che paese! Tira campà, su mangiamo e beviamo, ci affagliamo che domani qualche santo proteggerà. Mo c'è un Papa d'argillo che va in giro a più riprese. Che paese! C'è un governo buono e caro che ci aiuta per le scese. Che paese! E c'è qualche cardinale che di notte va in borghese. Che paese! Chi se sentono de casa, tanto il turco che l'inglese. Che paese! Chi cercò de fa il padrone, in quel posto se la prese. Perché a Roma siamo gente buona, semplice e cortese. Che te manne a fa fotte 10.000 volte al mese. Che paese, tira campà, su mangiamo e beviamo, ci affagliamo che domani qualche santo profeterà. Che paese, sta città, che paese, sta città. Che paese, sta città. Nuie d'arezza Roma, che t'hanno coglionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono e un morto si è ammazzato, e allora è segno certo che l'hanno assassinato. Che fai, non mi rispondi, me canti uno stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Voglio cantare così. Andiamo dagli a Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta uno scossone. Voglio cantare. Vabbè, fior de Yeah. Scusate la domanda, santità. Ve voglio pone solo sto quesito. Con tanti posti che ci stanno al mondo, voi proprio a Roma dovevate stare. La terra è grande e non finisce qua. Fatevi un giro intorno al mappamondo. Avete visto mai che un altro sito, un posto meglio ce può sempre stare? Gira il mondo tutto quanto per popoli e paesi, gira gira per tre mesi, passa il monte, passa il piano, gira tutto il mondo sano e si vende ben disposto, lui gli piace nessun posto finché un giorno vecchio e stanco torna a casa il prete bianco e con grazia da sovrano dice al popolo romano. Ho girato e ho visto tutto, non mi piace il mondo brutto, preferisco Roma mia, qui a rimano e così sia. Dice il popolo del Scipio. È la solita canzone per tornarlo su al padrone. Ma so bevuta fiume, lo vedi se è abbassato, però me sento bene, me sento più leggera, come fossi staccata dalla terra. Quanto me sento strana. E via che è un toccasana, è un'acqua prodigiosa, diuretica arcalina e perlidiosa. Ma come zozza lurida è piena di monnezza, non lo vedi? E questo è il fiume Tevere, in dove Giulio Cesare ci azzuppò i piedi e tutti i mali fa guarì. È una a desorgente che sgorga fervescente dalla storia. Allora è un'acqua magica, balsamica, carbonica. A bere st'acqua storica mi sento bene da morire. No! Nino! Nino! Nino! Nino, ma vuoi lasciare così? Nino, no! E mica mi vuoi lasciare solo, tu mi devi aiutare, Nina! Nina! Nina! Nina! Nina! Alla aiutate! Come faccio? Nina! Nina! Barzamica, carbonica! Storica! Sai, su di ieri oggi ci sarebbe stata poca gente. Beh, è un fiume in piena. Bellissimo! Se tu sapessi, Andrea, quanto mi costa trattenermi dallo sputare in faccia a Dio tutto il rancore e la rabbia che la sua grazia mi permette di far trasparire. ed è in grazia di Dio il mio stato mentale, in continuo cedimento ma ancora così lontano dal crollo. Io mi chiedo perché i negri vogliano essere biondi e i biondi, pur prendendo la bronzatura, non desiderino essere neri, e che i poveri di spirito e di tutte le altre cose terrene, visto che sarà loro il regno dei cieli, non la smettono di morire durante l'ora di pranzo. Se tu sapessi quanto mi costa. Non rassegnarmi all'odore di questo Dio quotidiano, a questa entità mitologica, senza poetica, senza misericordia, senza nemmeno se stesso. Sapessi quanto mi costa non averlo fatto prima e aver impiegato il tempo a vergognarmi per lui. Ma chi se ne frega? Abbiamo occhiali d'alto mare, di che vivere? Che ce ne frega? Saremo santi tutti quanti, chi è stato è stato. Ai giochi del massacro dedichiamo un fiore profumato. Non devi vomitare, trattieni tutto in gola, non sprecare, c'è poco da cantare. Tu non aver paura, ti prego, non chiudere gli occhi adesso e non temere, anche se là in fondo Dio è svanito da tempo. Cadono piogge che non asciugano mai, con la luna o col tempo o in fuori diventano, non asciugano mai. Con le tue labbra sante dammi tutti i peccati del mondo, e la carezza del tuo seno che mi danni per sempre, e non mi liberi mai, non mi perdoni mai. Oh, lunga introduzione senza parlare, abbiamo ascoltato alcune canzoni fondamentali, belle, straordinarie di Roma. Aldo Fabrizi da Rocantino che ci diceva chi cercò di far padrone in quel posto se la prese, perché a Roma siamo gente buona, semplice, cortese, che te parne una faffotte 10.000 volte al mese, e appunto 10.000 erano 10.000 e più. Poi c'era Gigi che ci cantava dal nome del papà, mi pare, moglie d'eretta a Roma, no? Che se fa pecorone e il lupo se lo magna, abbasta uno scossone. E pare che... Poi dal Gaetanaccio. Santità, ma proprio a Roma dovete stare. Poi lei, mi sono bevuta fiume. Poi io volevo continuare con Maria da Piagna, però no, sono stato un attimo. E siamo passati al grande Francesco Di Giacomo, che in questo momento storico è bene riascoltare, perché mi pare che il suo disco sia molto bello, sia perfetto per questo momento. Un disco dalla copertina molto rossa, La parte mancante, si chiama appunto La parte mancante. Niente male. Adesso c'è Herbie Hancock e pezzo si chiama Succotash. Io sono Edith e questa è Radio Samarcand. Buon divertimento.

We'll be right back.

غسلت يا بريمة وننشر هنا ياسمينة. Ci siamo avvicinati a musica che veniva ascoltata anche in Palestina qualche decennio fa. Sono canzoni di una cantante che si chiama Fairuz. In questo caso parla del ritorno alla terra, alla Palestina, eccetera. Prima siamo passati però dagli Area, gli Area che hanno profeticamente parlato di qualcosa che in questo momento ci appare improvvisamente tutto chiaro, no? Luglio, agosto, settembre, nero, Cometa Rossa, tutte canzoni che parlavano di qualcosa. E poi la Melodia Odessa, canzoni che parlavano di qualche altra cosa. Tutto chiaro, tutto attuale. E siamo finiti ad ascoltare una canzone nostalgica che dedico a qualcuno palestinese che si imbatte nella nostra radio. Questa è Samarcanda Digital Network. Malaina El Hawa. Questi sono i Building Instruments. Il brano si chiama Mangalan Min. Molto interessante anche la copertina di questo album. Some Molto interessanti le sonorità di questo gruppo strano, olandese, svedese, Building Instruments, mentre questo brano è un brano che sembra molto tranquillo, fa parte di un album che si chiama The Prisoner, firmato da Herbie Hancock. Ma il titolo è storico perché riproduce le parole di Martin Luther King, I have a dream. Herbie Hancock. Thank you. Potrebbe anche essere Freddie Hubbard, però non ho la copertina davanti, quindi non riesco a essere più preciso. I Have a Dream, un disco per la Blue Note di Herbie Hancock, un pianista, chiedo scusa al trombettista. Un pianista che riesce sempre a parlarmi, e il suo pianismo è pura poesia. Tocca al sassofonista, ma devo assolutamente andare a scoprire chi sono i musicisti. C'era Freddie Hubbard, effettivamente ho sbagliato. Il sassofonista che abbiamo ascoltato è Joe Henderson. Era Johnny Coles che suonava il flicorno e non la tromba. Albert Tutti Heath alla batteria. Garnett Brown al trombone. Hubert Lewis al flauto. Tony Studd al trombone basso. Jerome Richardson al flauto e al clarinetto basso. Poi c'è ancora Romeo Panchi, Jackie Jeffers, Oren Waters alla voce. E il grande Herbie che ha composto il brano e che sentite ancora al pianoforte dare alcune indicazioni di direzione. Bellissimo. Semplicemente bellissimo. Questa è Radio Samarcanda o Samarcanda Digital Network. Io sono Edith, al microfono con voi. Mi piacerebbe andare ad ascoltare un disco che è uscito poco tempo fa, di un musicista che conosciamo molto bene, che è Roger Waters dei Pink Floyd. Anche lui continua a impegnarsi e a dire la sua sulla, è da parecchio tempo che la fa, sulla politica del mondo. A un certo punto ho ripreso in mano le partiture di The Dark Side of the Moon e ha pensato bene di reinserire quei testi che lui stesso aveva composto in una dimensione completamente differente, con una copertina meravigliosa, questo occhio di cane con la copertina dei Pink Floyd all'interno, di The Dark Side of the Moon. E questo è The Dark Side of the Moon, ma ripreso da Roger Waters, e questo l'avete già riconosciuto, è Us and Them. Thank you. and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. Roger Waters è coadiuvato da una serie di musicisti. Alla batteria c'è Joey Waronker. All you distrust and All'organo c'è Jonathan Wilson. Poi c'è Roger che suona il pianoforte, addirittura in The Great Gig in the Sky, o Gig in the Sky. Il basso è suonato anche da Gus Seifert. E sentiamo un po' come suona Time. The voice had been there all along, hidden in the stones in the rivers. Questo è Roger Waters da un album poco ascoltato per radio, effettivamente non è molto radiofonico se non per una trasmissione notturna, ma chissà, può darsi che anche in altri orari possa essere ascoltato molto bene. Un album che si chiama The Dark Side of the Moon Redux. It was the voice of reason. Sentiamo come Roger suona il piano in Dear Mr. Waters, Don asked me to let you know that he is in hospital now and has been diagnosed with a cancer in his sinus. He also asked me to tell everyone that he is not answering any letters. Best to you, Don's assistant, Kendall. And then I wrote to Kendall. Dear Kendall, the other night in Zagreb, at the end of the show, when I sometimes wax political, I suddenly found myself telling 10,000 Croats Don's One Road story. I had no idea if they would get it. When I got to the line, there is only one road in Yugoslavia, they burst into loud and genuine laughter. I told them the rest of the story in brief, including Kirby's cancer, and reached the end. There is only one road. Thank you. I stayed in touch with Kendall. She lived a couple of hundred yards down the road from the farmhouse. Somehow Don's plan for the Eagle Farm to stay in the family never worked out, and it went on the market. Eventually an estate sale was organized, and Kendall kept me informed. It's a long drive. It was still light when we got there, so we went to the farm and sat on the porch and chatted to a few people who were gathered there. Some ladies intent on protecting Don's legacy, determined to at least buy his red chair, and some other important stuff. I told Kendall that if it was okay with the estate, I would like a couple of bale hooks and some baling twine from the barn. She organized that. Thank you, sweet Kendall. Tears burn my eyes. My new old friend. Un altro tipo di concentrazione, forse bisogna completamente dimenticarci, o soltanto così pensarlo, ma poi concentrarci su quello che lui dice. In pride of place alongside some mummified dragonflies and old robin's eggs. Ma visto che ci siamo addentrati in uno dei più bei dischi della storia della musica moderna. Io direi di sentire anche il brano che era concepito dopo. E poi ci spostiamo altrove. Questa è Samarcanda Digital Network, io sono Edit. Stiamo gironzolando fra i solchi di un disco che può essere bellissimo o insopportabile, dipende da R.I.P. Donald Hall, dallo stato d'animo. And now I've arrived at the bit I was looking for. The crossroads. Job with more pay and you'll sorry, I'll read that again. Welcome to Rooftops. I'm sorry. Slice of my pie. I've seen you change the water into wine. I've seen you change it back to water too. I sit at your table every night. I try, but I just don't get high with you. I wish there was a treaty we could sign. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine. Ah, they're dancing in the street, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. Since you've been gone, that any liar couldn't say as well. I just can't believe the static coming on. You were my ground, my safe and sound. You were my aerial. The fields are crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. E dopo Roger Waters, I heard the snake was baffled by his sin. Che canta così. He shed his scales. Leonard Cohen dal suo ultimissimo album. But born again is born without a skin. Dopodiché se n'è andato. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. Ha detto lui, il titolo è Treaty. I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. It's Leonard Cohen. I wish there was a treaty. I wish from Samarkanda Digital Network. Between your love and mine. The National and the International Radio from Rome. E adesso un altro che continua a cantare pur non avendo più voce. Adesso anch'io parlerò così, eh? Sì, ok, io sono Edith. That Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going That Duquesne train gon' ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing, sound like it's on a final one. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing, blowing like she's at my chamber door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Can't you hear that Duquesne whistle blowing, blowing like the sky's gonna blow apart. You're the only thing alive that keeps me going. You're like a time bomb in my heart. I can hear a sweet voice gently calling, must be the mother of our Lord. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like my woman's on board. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna blow my blues away. Yo, rascal, I know exactly where you're going. I'll lead you there myself at the break of day. I wake up every morning with that woman in my bed. Everybody telling me she's gone to my head. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna kill me dead. Non male, ma anche Bob Dylan ha deciso di cantare con una voce. Can't you hear that Duquesne whistle blowing? Una volta chi cantava così, uno dei più famosi musicalmente, era un certo Tom Waits, no? Dopo che aveva fatto anche il film insieme a Benigni, no? Vi ricordate Tom Waits? Non vi ricordate Tom Waits? Allora vi faccio sentire questo brano. Il brano si chiama Small Change, da Tom Waits dal vivo. Siamo nel 1978. City a couple years ago. I was staying on 23rd Street between 7th and 8th, the Chelsea Hotel. I used to go across the street, little pizza joint, and get a slice. And I was sitting at the counter one night. Something was in the air. I just knew something was gonna happen. And it did. This is all about a young kid wearing a pair of tennis shoes and a raincoat. It's all about a cat named Small Change. And this particular night, he got rained on with his own 38. And nobody flinched down by the arcade there. His gold trousers, they were twisted. I heard the siren high and shrill, and crumpled in his fist was this $5 bill. And all the naked mannequins with their Cheshire grins, and the rocking tours and roused abouts, I said, hey, buddy, why don't you come on in? Man, the dreams ain't broken down here, nah. They're walking with a limp. At least now that Small Change got rained on with his own 38. Nobody... Trovo che in alcuni cortei manchi... una necessaria fantasia musicale, ritmica, questa bisogna recuperarla. Intanto c'è qualcuno come Daniele Sepe che ha tentato... di raccontare in tempi assolutamente sospetti quello che continua ad avvenire. Vite perdite, Daniele Sepe. Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla vostra sete di totale devastazione, andate a frugare anche il mare. Avidi, se il nemico è ricco, arroganti, se è povero. Gente che nell'Oriente e nell'Occidente possono saziare, solo voi bramate possedere, compari smania, ricchezza e miseria. E rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome lo chiamano impero. E rubano, massacrano, rapinano, e con falso nome lo chiamano nuovo ordine. Infine, dove fanno il deserto, dicono che è la pace. Compari smania, ricchezza e miseria. il deserto, dicono che è la pace. Daniele Sepe musicalmente si è sempre impegnato in qualche modo a cercare le parole per dire i pensieri. Le parole non sono così inutili, come dice anche il nostro, le parole sono importanti. Non solo sono importanti, ma insomma anche la musica è importante perché può smuovere le coscienze come le barche a vela, come il mare, come la morte di gente innocente. Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da rete un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore,

al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. E chissà dove è incominciato tutto, chissà. Anche noi con le mani puntate al cielo abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo. Anche noi nelle nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è cominciato tutto, chissà. Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.